Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena. Benvenuti a tutti quanti all'odierna puntata di Lucciole nelle tenebre. Siamo sempre noi, io sono Eleonora. Io sono il nostro amatissimo tecnico. Ciao. Io sono Margherita. E abbiamo pensato di fare una puntata sul 25 aprile, una puntata sui partigiani. A proposito, ragazzi, cosa fate il 25 aprile? I tecnici lavorano il 25 aprile. Sì, i tecnici lavorano, non ci crede nessuno. Ma sì, registriamo il 25 aprile, sul serio. Ma te pensa. Marghe, cosa fai? Tu che cosa fai, Ele? Ma allora, pensavamo sinceramente a una bellissima grigliata a Villa Spada. Vuoi venire anche tu? Ci sono i partigiani. I partigiani. In effetti, comunque, dovremmo un po' rafforzare la memoria, cosa che si sta perdendo proprio, un valore che si sta perdendo negli ultimi tempi. Infatti, siamo andati anche in giro a sentire i pareri di baldi giovani incontrati per caso in via Zamboni. Gente, vero? Incontrata proprio per caso, sì. Infatti, abbiamo posto loro alcune domande su quello che ne pensavano del 25 aprile, dei partigiani, di questa celebrazione della memoria, appunto il giorno del 25 aprile, il giorno della resistenza. E comunque la gente che si incontra in via Zamboni ultimamente, cioè ragazzi. Sì, diciamo che hanno anche dei nomi piuttosto curiosi, nel senso. Beh, scopriamoli, andiamo a vedere. Sentiamo. Ed ora siamo in compagnia di Cesare. Ciao. Allora, ti possiamo fare qualche domanda sul 25 aprile, partigiani? Sì, vabbè. Ok, ma che senso ha per te la giornata della memoria, il 25 aprile? È comunque una giornata molto importante per la nostra storia repubblicana, storia dell'Italia. È una giornata che per l'appunto mette fine alla Seconda Guerra Mondiale, con la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, dalle truppe naziste e dalle truppe fasciste. È una giornata molto importante perché per l'appunto segna l'inizio di una nuova era per un paese come l'Italia. E secondo te fra i giovani c'è ancora comunque un interesse verso questo tema, oppure man mano c'è sempre più disinteresse? Secondo me man mano c'è sempre più disinteresse, la giornata non viene più presa troppo in considerazione tra i giovani, che secondo me negli anni la stanno denigrando anche nella sua importanza storica, ma anche importanza per l'appunto anche del nostro essere giovani, del fatto che noi possiamo essere così anche grazie a una giornata del genere, come il 25 aprile del 45. Se ci è permesso di essere noi, di poter studiare, di comunque di vederci con altri ragazzi, non lo so, anche semplicemente per stare insieme in associazioni come può essere un'associazione come Libra, è permesso esclusivamente anche da una giornata come il 25 aprile, visto che prima una cosa del genere, una cosa così basilare non era permessa. E anche un po' a merito questo, facendo riferimento alla situazione italiana attuale politico-sociale, secondo te ci sono delle forze oscure che stanno intaccando la nostra democrazia, che è appunto nata dopo questi sacrifici e sforzi per un'Italia diversa, un'Italia libera? Non so se per le forze oscure vengono intese forze politiche o bancarie esterne o speculazione finanziaria o quant'altro. Non voglio credere che ci siano, ma penso che ci siano alla fine, al di là di tutto. Penso più che altro che ci sono delle forze politiche che denigrino questa giornata, e forze politiche per esempio di destra, ci sono anche altre forze politiche che per l'appunto non la riconoscono nel momento stesso in cui non riconoscono neanche un'Italia unita, che sono anche le stesse forze politiche per l'appunto che hanno dei rapporti stretti anche con forze oscure che abbiamo anche all'interno del nostro stesso territorio, nata al sud ma espansi sì in ogni dove, sia al nord che al centro che al di fuori dell'Italia stessa. Ciao, sono con Rachele, l'ho incontrata casualmente in via Zamboni. Allora, ti facciamo qualche domanda su 25 aprile partigiani, che ne pensi? Grazie a tutti, ciao. Beh, partiamo comunque da una frase di Gramsci, che comunque scriveva l'odio verso gli indifferenti. Gli indifferenti sono coloro che non prendono appunto una parte, invece appunto i partigiani sono coloro che attivamente si schierano e appunto sono attivi all'interno della vita sociale. E cosa vuol dire ai nostri giorni, al nostro tempo, fare parte attivamente della società? No, infatti, secondo me ad oggi non possiamo individuare delle persone, dei soggetti che siano prettamente identificabili come partigiani. Cioè, nel senso, partigiano non è un, un soggetto diverso dagli altri, ognuno di noi potrebbe essere partigiano proprio perché partigiano significa prendere una parte, quindi non è la persona famosa che è partigiano, non mi viene in mente nessuna persona a livello pubblico che è identificabile con questo termine effettivamente, ma neanche perché non ci siano persone che appunto valide a livello pubblico, anche se naturalmente è abbastanza difficile trovarne, soprattutto in questo periodo. Però cioè a livello secondo me è proprio un termine che non va reso eroico, ma semplicemente appunto un termine molto vicino a tutti noi, è per questo che il 25 aprile secondo me si sente ancora molto come festa e ha senso come festa, perché presa coscienza della storia dei partigiani e l'identità dei partigiani storica, per cui è naturalmente un'altra cosa rispetto a quella che abbiamo oggi, il 25 aprile come festa ad oggi significa anche un ricordarsi del perché della Costituzione, del perché di alcuni valori che è sempre la pena seguire, cioè i partigiani erano dei ragazzi, dei persone qualunque, dei contadini anche spesso ignoranti che erano semplicemente logorati dal fascismo e da una dittatura che toglieva la libertà, e quindi è uno scatto di libertà essere partigiani, uno scatto di orgoglio. Ok, sono qui, ho incontrato Carmelo qui per la strada e gli farò qualche domanda su il 25 aprile. Allora, dimmi Carmelo, il 25 aprile è la giornata della liberazione, secondo te ha ancora senso parlare di questa data? Questo è il significato del ricordo, un giorno appunto per celebrare questa data? Credo assolutamente di sì, perché come ci insegnano gli errori recenti, la memoria è una cosa importante. Io penso che in Italia l'antifascismo sia un valore in quanto è sinonimo di libertà, e anche ultimamente si assiste a manifestazioni di rivalutazione nei confronti del fenomeno fascista. Ad esempio si dice che gli errori sono stati limitati soltanto l'entrata in guerra o soltanto le leggi razziali, quando in realtà è stata una negazione di libertà su scala ben più vasta. Quindi la memoria della giornata della resistenza è importante proprio per prevenire che venga svalutata l'importanza di un momento importante, dal momento che appunto per un ventennio sono state negate le libertà fondamentali nel nostro paese. Grazie, è stato molto interessante. Disintegrate libertà fondamentali del nostro essere uomini, prima che studenti, prima che docenti. Uno Stato che non rispetta i propri cittadini non è uno Stato, è una mafia. Uno Stato che si comporta in questo modo non merita il mio rispetto nelle mie tasse. Io sono Lupin VII, il conquistatore. Ringraziamo Lupin VII, il conquistatore. Intervento fondamentale. Ve l'avevamo detto che ultimamente le persone che girano in via Zamboni sono un po' particolari, però i commenti li lasciamo a voi. E adesso ascoltiamo tutti un brano di Scapè che si chiama Resistencia. Resistencia! Buon ascolto. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar. Entre il proletariato. Entre il proletariato. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de reemplazarlo, más calles en mis manos, mis riñones van. Resistencia. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego. Sta avvicinando il 25 aprile, adesso diventiamo un po' più seri, vero ragazzi? Dopo Resistenza. Esatto, esatto. E quindi con l'approssimarsi della festa della liberazione ci sembra comunque doveroso ricordare delle storie, almeno una delle storie partigiane che riguardano l'ambito bolognese, proprio perché appunto la memoria è importante, mantenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto nel nostro paese ci serve appunto a non spezzare il filo della memoria. È il legame che ci unisce con tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per un'Italia diversa, un'Italia libera, un'Italia democratica. E questa è la storia del piccolo Franco Paselli, che nasce nel 44, il 20 agosto, a San Martino, sulle colline di Marzabotto. È figlio di Dante e Anna, che sono due giovani sposi, 18 anni. E il piccolo Franco nasce in un mondo sconvolto dalla violenza. Infatti tutta la famiglia Paselli ha lasciato la casa paterna di Casoni per rifugiarsi a San Martino, che è più in alto, e quindi pensano di essere più al sicuro lì. Dante, il papà di Franco, è partigiano nella brigata Stella Rossa. Tutte le famiglie là hanno uomini nella brigata. Il giorno prima che nascesse Franco c'è stato uno scontro molto duro con i tedeschi. Eppure la liberazione appare vicina. La sua mamma, Anna, ha fiducia che presto Dante tornerà a casa e che la guerra sarà finita. E magari allora si farà Franco la sua prima fotografia. Ma il 29 settembre si avvicinano i rastrellamenti e gli uomini si nascondono nei boschi, anche nonno Duilio. Donne, vecchi e bambini sono lasciati a casa. Nessun uomo toccherebbe donne e bambini indifesi, neppure i tedeschi l'hanno mai fatto. Infatti la squadra passa e non succede nulla. Le SS sono dirette alla chiesa di Casaglia, dove faranno strage di tutti coloro che vi si sono rifugiati, soprattutto donne e bambini. Di tutto questo i Paselli non sanno nulla. Non sanno che tra quei morti ci sono anche i loro parenti, compreso Claudio, il cuginetto di 2 anni di Franco. Ma i tedeschi del maggiore Reder, il Monco, vogliono lasciarsi dietro solo morte. Il giorno dopo arriva un'altra squadra, rastrella tutti e li ammassa davanti alla chiesa di San Martino. Franco è in braccio alla sua mamma Anna, terrorizzata. È in quel momento che arriva dal bosco suo papà, che sta venendo a trovarli. È ferito ad una gamba, ma vede la sua famiglia e corre incontro a sua moglie. Tra l'SS c'è un italiano, lo sentono parlare in dialetto. Indica Dante come partigiano e lui viene ucciso davanti ad Anna, che è come impazzita. Comincia a gridare, viene spinta contro il muro con gli altri. Allora iniziano le mitragliatrici. Anche Franco è trucidato. Ha 40 giorni e non conoscerà mai la vita. I superstiti e i partigiani che tornano il giorno dopo per seppellire i morti scoprono l'ultima bestialità. Sono stati tutti bruciati. La festa della liberazione, da questa voglia di serenità e da quelli ubriachi di belle parole, da quelli sbronzi d'autorità, come mio nonno minatore di verbi e congiuntivi di nessuna utilità, di rispetto per se stessi e per gli altri, praticamente l'infelicità. E questi bambini pimpanti e codardi che hanno già perso la verginità, l'imene rotto della meraviglia, nessuna scintilla, una sega a metà. La festa della liberazione, ce ne son molti di cui mi libererei, a cominciare da quelli di famiglia, dai tarli che mi han regalato i miei, dalla voglia di cascare sempre in piedi, dalla tua scuola, dall'università, che ti ha insegnato soltanto ad imparare, per imparare, e adesso che si fa? E mia sorella rizza cazzi per scelta, un piercing sull'ombelico, sei una celebrità. In questo paesino di grandi repressi, pochi squalli di amplessi, la mediocrità. La festa della liberazione, da tutti gli atei, compreso il sottoscritto, io prego molto, ma molto di più, di chi si inginocchia e prega il soffitto, e passo ore, giorni, mesi a pensare le stelle, non guardarle mai. Ho paura di vederlo spuntare, sorride e dice a Pino, che cazzo fai? E la marcia nuziale di tutti è un aereo che passa e lascia una scia che divide il cielo da quelli buoni e da quelli che hanno bisogno della polizia. La festa della liberazione, da questo talento di perdonarmi tutto, e perdono gli altri solo se comoda a me. Dio, quante balle che mi son detto e che ho detto a tutti quanti voi, invitati a casa mia e poi lasciati fuori. E mia sorella piange di nascosto, la sua ragazza le ha detto muori. E tutti i maschi del paese sono in tiro, nell'attesa si picchiano per toccarsi un po'. Quanto è brutta tutta questa campagna, la gente si lagna e nemmeno un falò. Mentre al centro han rubato il senso, centrare un bersaglio è quello che vorrei, come mio padre 34 anni fa, una vita ad allontanarlo e diventare come lui.